Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Radio Basso Libera. Questi i titoli del giornale radio. Bruxelles, l'Unione Europea boccia i finanziamenti per l'Est e dice no al protezionismo. Accordo su un piano comune per combattere i titoli tossici. Stupro della Caffarella. I rilievi sul DNA dei due romeni arrestati gettano dubbi sulla loro effettiva responsabilità. Esteri. Oggi a Sirte Berlusconi incontra il premier libico Gheddafi. L'Iran ha un passo dalla bomba atomica. Allarme dagli Stati Uniti. Sport, calcio e risultati della giornata di campionato. Apriamo il giornale con il vertice dell'Unione Europea a Bruxelles. Bocciato il piano ungherese di aiuti economici ai paesi in difficoltà. Tutti d'accordo invece sul no al protezionismo e sull'adozione di misure comuni per contrastare i titoli tossici. Sentiamo da Bruxelles la cronaca di Claudio Otico. Si è concluso senza alcuna decisione concreta il vertice dell'Unione Europea che si è svolto ieri a Bruxelles. L'incontro è stato convocato per concordare la risposta dei 27 alla crisi economica. Il documento finale sembra però essere un elenco di no. È stata respinta la proposta ungherese per un piano di salvataggio per le economie dell'Est Europa. Dopo le polemiche delle ultime settimane tra la presidenza ceca e il presidente francese Nicolas Sarkozy, l'Unione Europea pronuncia un altro no deciso al protezionismo. La strada scelta, dicono a Bruxelles, è quella del massimo uso del mercato interno per la libera circolazione di merci, capitali e servizi. No anche alla fondazione della cosiddetta Bad Bank, che avrebbe raccolto tutti i titoli bancari tossici sparsi nel sistema bancario europeo. L'ultimo no riguarda il rilassamento dei criteri di adesione all'euro per affrontare la crisi economica dei paesi dell'Est. Di fronte a tutti questi no, forse l'unica notizia positiva è l'annuncio del summit Unione Europea Barack Obama in programma il 5 aprile a Praga. E sui finanziamenti negati ai paesi dell'Est Europa sentiamo i particolari dalla nostra inviata Manuela Mischitelli. È passato il tempo del blocco sovietico. Lo sa bene la Merkel che forse in ricordo della sua DDR si oppone alla proposta di un unico piano per il finanziamento dei paesi dell'Est Europa. Non mi pare che si possa confrontare né la Slovenia né la Slovacchia e l'Ungheria. Il vertice di Bruxelles boccia l'idea dell'ungherese Gyurk Sani e preme per l'adozione di criteri che vadano oltre la mera collocazione geografica. Debolezza economica, ma soprattutto politica, quella dei 9 paesi dell'Est Europa che domenica si erano riuniti in un prevertice. Troppe differenze e dissensi perché si potesse formulare una posizione comune capace di fronteggiare i soliti potenti. I circa 160 miliardi che sarebbero stati investiti nel fondo unico saranno destinati invece agli stati che ne avranno veramente bisogno, valutando caso per caso. La crisi imperversa anche nell'area euro. Si vocifera che Grecia, Irlanda e Austria siano a rischio default. Un'Europa che si divide quindi non più da est a ovest, ma da sopra e sotto lo zero in bilancio. I due cittadini romeni accusati per lo stupro della Caffarella potrebbero essere innocenti. I dubbi sui presunti colpevoli sorgono con l'esame del DNA. Intanto resta alta la tensione nel dibattito sulle ronde contro la violenza. Il servizio di Francesca Casafina. I due cittadini rumeni accusati dello stupro al Parco della Caffarella di Roma potrebbero non essere i colpevoli. La relazione resa nota oggi dalla scientifica parla di risultati non univoci in merito agli esami effettuati sul DNA dei due sospettati e a breve si procederà a nuove comparazioni. In particolare la posizione di Carol Razza a destare i sospetti degli inquirenti. Il 36enne rumeno accusato di correità dal connazionale Alex Lojos all'indomani dello stupro dello scorso 14 febbraio ha sempre negato davanti al PM il proprio coinvolgimento nella vicenda. Del resto le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini hanno rivelato parecchie incongruenze, mentre oggi Razz comparirà nuovamente davanti al giudice. Nuovo polverone dunque dell'emergenza stupri, resa ancora più grave dalle recenti polemiche sulle ricette anticriminalità della giunta Alemanno. La parola passa agli inquirenti anche in tempi come questi di ronde e giustizia fai da te. E veniamo ora al caso Cesare Battisti. Forse un punto di svolta il contenzioso tra Italia e Brasile. Il servizio di Luigi Menichilli. Sembra poter giungere ad una conclusione l'accesa diatriba tra Italia e Brasile sulla richiesta di estradizione di Cesare Battisti. Secondo il quotidiano Estado di San Paolo, il Supremo Tribunale Federale Brasiliano, l'equivalente della nostra Corte di Cassazione, darà corso alla richiesta di estradizione dell'ex componente dei proletari armati, condizionandola però alla riduzione della pena dall'ergastolo a 30 anni. Battisti era stato infatti condannato in contumacia al carcere a vita per aver partecipato a 4 omicidi durante gli anni 70. Dichiaratosi sempre perseguitato politico, l'ex terrorista italiano ha finora beneficiato della protezione del governo brasiliano guidato dal presidente Lula. In particolare, la polemica tra i due paesi ha raggiunto il culmine quando il ministro della giustizia brasiliano, a sua volta ex guerrigliero, ha dichiarato che Battisti sarebbe stato in pericolo di vita perché perseguitato dallo Stato. Il premier Silvio Berlusconi sarà oggi da Gheddafi per celebrare l'accordo finale fra il nostro paese e la Libia. Si apre un'epoca di cooperazione reciproca fra emergenza e migrazione e crisi economica. Sentiamo i particolari da Dina Galano. Attesa per il pomeriggio la ratifica dell'accordo Italia-Libia firmata lo scorso 30 agosto a Bengasi. Il premier italiano e il colonnello Gheddafi si apprestano a concludere l'iter del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione che definisce la relazione tra i due paesi. L'Italia finanzierà la realizzazione di infrastrutture sul territorio africano e sosterrà con la collaborazione dell'Unione Europea i costi delle operazioni di controllo delle frontiere. Il ministro degli esteri, Franco Frattini, ha definito storico l'accordo che impegna la Libia a pattugliare con noi le acque territoriali. Intanto il ministro della pianificazione libica, Zizi, pronuncia la sigla di una serie di accordi che prevedono investimenti diretti nel sistema economico italiano, colpito dalla crisi globale. Le dichiarazioni rese al Corriere della Sera dal ministro, che è anche presidente del Fondo Sovrano di Investimenti Libico, hanno rilevato un principio di intesa con Mediobanca e il rafforzamento delle partecipazioni azionarie in Unicredit. E passiamo a parlare di economia. Le banche del tempo lavorano per costruire una via d'uscita dalla crisi economica globale che rilanci i valori di solidarietà tra le persone e abbatta i muri dell'egoismo. Ce ne parla Nicola Caforio. Prodotto interno lordo, investimenti, esportazioni, titoli di borsa. A qualcuno sembra che queste forme proprio non colgano il vero problema che la crisi globale ha denudato davanti agli occhi dei cittadini del mondo. La Banca del Tempo, associazione nata nel 1988 e ad oggi con più di 300 sedi, crede che quel che vada ricostruita non sia solo una nuova politica economica, ma una nuova socialità tra le persone. Basata sul semplice scambio del tempo tra i suoi soci e diffusa in tutta Italia, considera tutte le prestazioni di pari dignità. Chi concede un'ora del suo tempo per aiutare una donna anziana potrà ricevere in corrispettivo un'ora di qualsiasi delle altre attività messe a disposizione. È questo che la BDT fa per scardinare una società che viene fondata sull'egoismo e sull'individualismo e per spingerla invece verso comportamenti più umani e solidali. Ovviamente queste idee sono ben lontane dall'essere accettate da chi potrebbe davvero ergerle a nuovi modelli, ma in un mondo dove ogni mattino sembra vedere scomparire un raggio di sole, varrà la pena uscire e godersi le belle giornate. E parliamo adesso della crisi, continuiamo a parlare adesso della crisi economica. Arrivare alla fine del mese è sempre più difficile, così anche il Vaticano scende in campo per aiutare le famiglie meno abbienti. Sentiamo come da Marco Amico. Fondi di solidarietà, prestiti senza interesse, progetti di microcredito sul modello dell'economista e Nobel Muhammad Yunus. Di fronte alla crisi economica le classiche mense dei poveri non bastano più e allora le diocesi italiane si mobilitano per raccogliere denaro e sostenere chi si trova in difficoltà. È l'iniziativa della Chiesa Cattolica che già a Natale con il Cardinal Tettamanzi annunciò la nascita di un fondo di 1 milione di euro raccolto tra le entrate dell'8 per mille. A fine marzo il Comitato Permanente della Conferenza Episcopale si riunirà per definire i dettagli dell'iniziativa a favore delle famiglie bisognose voluta dal Cardinale Angelo Bagnasco. Si parla di decine di milioni di euro, fermo restando, come sostiene una nota della CEI, che lo Stato dovrà comunque far per intero la sua parte. E quello dei microcrediti è in effetti lo strumento più diffuso. A Prato, con un fondo di garanzia di 130.000 euro, il microcredito è attivo dal 2005. Un progetto di microcredito etico-sociale è stato invece appena lanciato dalla diocesi di Chieto e Basto, guidata dall'arcivescovo teologo Bruno Forte. La Chiesa si farà garante per l'accesso al credito in banca di chi non ha i requisiti. E poi ci sono i fondi veri e propri per le famiglie in difficoltà. A Lodi la diocesi ha iniziato con 50.000 euro, a Bergamo e Vicenza con 300.000. Altri se ne annunciano da Frosinone a Molfetta, da Novara a Trani, dove ci sarà una vera e propria colletta di solidarietà. Pagina degli esteri. I militari statunitensi lanciano l'allarme sulla possibilità da parte dell'Iran di costruire una bomba atomica, mentre gli ambienti politici minimizzano. Ci dice tutto l'inviata Francesca Agnetti. I timori che anche l'Iran possa avere presto un ordigno nucleare si fanno sempre più concreti. Ieri mattina, per la prima volta, tale circostanza è stata confermata in maniera esplicita dai più alti vertici militari statunitensi. La conferma viene dall'ammiraglio Michael Mullen, capo delle forze armate, che in un'intervista alla CNN ha dichiarato che l'Iran è in possesso di una quantità di uranio sufficiente a costruire almeno una bomba atomica. Secondo le stime dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, oggi l'Iran dispone di poco più di una tonnellata di uranio debolmente arricchito, sufficienti, secondo David Albright dell'Istituto per la Scienza e per la Sicurezza Internazionale di Washington, a costruire un ordigno militare. Resta da valutare la reale intenzione di Teheran riguardo l'utilizzo del nucleare e i risultati della partita diplomatica aperta dal presidente Obama, che ha definito il programma atomico iraniano un problema da affrontare al più presto. La crisi economica non porta solo danni. Nel Maryland potrebbe addirittura aiutare ad abolire la pena di morte. Sentiamo perché da Massimiliano Nespola. Per reagire alla crisi economica, si pensa che abolire la pena di morte porti concreti benefici. Sarebbe infatti 3 volte più costosa del carcere, secondo il governatore democratico del Maryland Martin O'Malley, da sempre contrario a questa misura. Ha citato uno studio dello Urban Institute, condotto tra il 1978 e il 1999 sulle esecuzioni capitali. Arrivare a una condanna può costare più di 3 milioni di dollari, considerando le varie fasi del processo. Se una richiesta di condanna del PM viene respinta alla Corte, se ne spende 1 milione e 800 mila. Detenere una persona colpevole di omicidio, un reato che negli Stati Uniti si paga spesso con la vita, costa 1 milione e 100 mila dollari. Oltre al Maryland, anche Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, New Hampshire e New Mexico hanno presentato disegni di legge per l'abolizione. Restano fortemente contrari il Texas e la Virginia, così come la Fondazione per la Giustizia Criminale, che tutela gli interessi dei familiari e le vittime degli omicidi. La tesi contraria sostiene che la condanna a morte sia necessaria anche se verificano sprechi per assicurare giustizia alle vittime. In ogni caso, il movimento abolizionista è riuscito già nel 2007 a ottenere cancellazione della pena di morte nel New Jersey e questa è considerata una svolta epocale. E spesso, per via dell'affollamento e del degrado, negli Stati Uniti alcune carceri rilasciano in anticipo i detenuti accusati dei reati meno gravi. Che i nomi cinesi fossero complicati è noto, ma la storia del signor Zhao ha dell'incredibile. Da Pechino, Andrea Pira ci racconta la storia di un uomo costretto dalla burocrazia a cambiare nome. Zhao Qi non si potrà più chiamare Zhao Qi. Quando 23 anni fa la famiglia Zhao decise di dare al figlio il nome Qi, non sapeva che così gli avrebbe causato problemi con la polizia. È questa la storia surreale di un giovane del Jiangxi, nell'est della Repubblica Popolare. In onore alla grande Cina, che si affacciava sulla scena mondiale, i genitori avevano scelto di chiamare il primogenito Qi come la terza lettera dell'alfabeto latino. L'abbandono dei classici caratteri cinesi e l'utilizzo dell'alfabeto voleva anche essere di buon augurio affinché il figlio intraprendesse lo studio dell'inglese. Ma gli ufficiali della polizia non hanno apprezzato la scelta. Al momento di rinnovare la carta d'identità, Qi si è sentito dire che il suo nome andava contro la legge. Quando nel 1985 i genitori lo scrissero all'anagrafe, la registrazione veniva ancora fatta a mano. Oggi, con l'avvento dei computer, la tecnologia è entrata anche nella burocrazia cinese. In questo nuovo sistema, l'utilizzo delle lettere dell'alfabeto non è consentito. L'immissione del nome è tecnicamente impossibile. Dopo aver utilizzato il proprio nome per più di 20 anni, Qi ha deciso di ricorrere in giudizio. Il risultato non è stato però dei migliori. Difeso dal padre, l'avvocato Zhao Jiron, dopo un processo di sole 3 ore, Qi ha deciso di trovare un nuovo nome e dalle colonne del quotidiano Information Daily ha invitato i cinesi ad aiutarlo nella scelta. Salman Rushdie si scaglia contro The Millionaire, il film pluripremiato alla notte degli Oscar. Sentiamo perché da Elisabetta Cesaroni. Salman Rushdie se la prende questa volta con il film che Hollywood ha premiato recentemente con 8 Oscar. Nonostante i riconoscimenti, la pellicola ha suscitato già molte polemiche, le più pesanti da parte degli intellettuali musulmani, per non parlare del giovane protagonista picchiato dal padre al suo ritorno a Mumbai. Salman Rushdie, scrittore noto per essere stato colpito 20 anni fa da una fatwa a causa del libro I versetti satanici, nel suo intervento presso la M. Roy University di Atlanta ha espresso un giudizio molto critico sulla pellicola. La trama del film è assurda, un plot ridicolo. L'autore, in una dichiarazione riportata dal quotidiano The Guardian, aveva già sottolineato che il film di Boyle manifesta un'incoerenza di fondo, la cui origine è da ricercare nel libro Le 12 domande di Vikas Swarup, da cui il regista ha tratto ispirazione. Rushdie non risparmia le critiche nemmeno ad altri film tratti da opere letterarie e premiate agli Academy, come The Reader, di cui dice «una pellicola pesante e priva di vita, uccisa dalla rispettabilità», e il curioso caso di Benjamin Button, che per l'autore alla fine non ha niente da dire. Nessuna critica invece per i film tratti dai suoi lavori, a cui lo scrittore ha partecipato attivamente collaborando alla stesura della sceneggiatura, e per quelli in cui ha avuto l'occasione di fare una piccola parte. Ricordiamo il diario di Bridget Jones, di Sharon Maguire e Quando tutto cambia, di Helen Hart. E adesso ci spostiamo in Africa, dove in Burkina Faso oggi si apre il Festival del Cinema Africano. Sentiamo da Ouagadougou la corrispondente Silvia Koch. Film, cortometraggi, documentari, fiction e serie televisive. Con questa 21esima edizione, dedicata alla memoria dello scrittore e cineasta senegalese Sembene Ousmane, il Festival del Cinema Panafricano compie 40 anni. La ricchezza, la cultura, i sogni dell'Africa saranno narrati attraverso 128 opere per il grande e il piccolo schermo. Una rassegna storica che punta a fare del cinema un veicolo per i valori del continente, ma anche un invito a una conoscenza diretta di queste terre, spesso raccontate solo come realtà di conflitto o emergenze umanitarie. Sul grande schermo del FESPACO saranno proiettate molte anteprime internazionali prodotte in diversi paesi, dal Senegal al Mali, dal Burkina Faso alla Tunisia, e poi ancora l'Egitto, l'Algeria, il Camerun, il Marocco e la Repubblica Democratica del Congo. Tra i lungometraggi segnalati dagli esperti ci sono Massa Sad di Daniel Kamua del Camerun, Fantan Fanga dei maliani Adama Drapo e Ladi Diakité, Le Faux du Mansour di Mansour Sorawat del Senegal e Cœur du Lion del Burkinabé Boubacar Diallo. E torniamo a parlare di bombe, anche se meno offensive, alla crema. Insieme a gelati, pizzette e cornetti sono al centro di una polemica nella capitale. Ce la racconta da Roma Alfredo Bucciante. Dietro a fronte del Campidoglio, sull'ordinanza che avrebbe vietato ai laboratori artigianali la vendita di cornetti e gelati dopo l'una di notte. I gestori hanno minacciato di dover ricorrere alla disobbedienza civile per evitare la chiusura dei propri esercizi. I nottambuli non sembrano assolutamente disposti a cambiare le proprie abitudini e ritengono quella dello spuntino notturno una tradizione della città, non troppo salutare ma pur sempre un rito. Da parte dell'assessore Davide Borboni la norma serviva a colmare un vuoto legislativo sul tema. Non c'era nessuna regola, la legge regionale prevede addirittura la chiusura alle 22, noi gli diamo la possibilità di restare aperti fino all'una, ha dichiarato, aggiungendo: ma chi vendeva kebab e pizza al taglio stava aperto fino all'alba e creava problemi di sicurezza per l'ordine pubblico. A Roma alcune questioni sembrano giocarsi sugli orari. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche da sport dopo le 21 è scaduto il 28 febbraio, mentre la zona a traffico limitato notturna era stata portata prima alle 21, poi alle 23. Quest'ultimo punto sembra essere il vero ago della bilancia e terreno di scontro tra residenti, ristoratori e commercianti. Tempo di quaresima dappertutto, ma non a Poggio Mirteto, piccola realtà in provincia di Rieti. Ci dice tutto Alessio Fabrizi. Qui si festeggia il Carnevalone Liberato, festa anticlericale, ricorrenza che celebra la liberazione dello Stato... Mi sei spento? Oh. Scusate. Vai, vai, ce la fai? Ti sei spento, vai, vai. Saltata la linea. Proseguiamo adesso parlando del balletto russo che compie 100 anni. Ascoltiamo il reportage sull'Accademia Nazionale realizzato da Valeria Meta. Le immense finestre affacciate sul palatino inondano di luce. Dagli specchi alle pareti rimbalzano le linee asciutte e regolari delle sbarre. Niente lascia pensare che di qui a pochi istanti si trasformeranno nei ricettacoli di una sofferenza antica. Esattamente 100 anni fa, nel 1909, dalla Russia partiva la rivoluzione che avrebbe sconvolto il balletto e imposto una svolta al mondo della danza. Quando il sublime Nijinsky fece la sua comparsa sui palcoscenici parigini, nei panni, o meglio, nelle piume, dell'uccello di fuoco, il pubblico dell'opera restò sconcertato. Un secolo più tardi, all'Accademia Nazionale di Danza, si perpetua la magia inaugurata in quelle notti lontane. La quiete del più alto colle di Roma è il teatro ideale per ospitare gli allievi di Tersicore, officianti leggeri e disciplinati di un rito antico. Sui volti dai lineamenti delicati balena un sorriso d'intesa quando entrano alla spicciolata nella sala e prendono posto alla sbarra, rigorosamente lo stesso, come sui banchi di scuola. Il pianista saluta allegro e si accomoda davanti allo strumento. Gli ultimi ritardatari si affrettano al loro posto. Il rumore del gesto sul parquet denuncia la corsa lieve delle ragazze. Le scarpette che calzano portano i segni di mille battaglie. All'ingresso dell'insegnante si fa silenzio. Quinta posizione, giù le spalle. Musica. La lezione comincia. Nessuno potrebbe indovinare quanta fatica c'è dietro gli esercizi che impegnano i ragazzi per 45 minuti senza interruzione, solo scrutandone l'espressione comunque impassibile. La danza è dolore e tormento, ma all'esterno deve trasparire solo l'estasi. Sarà forse per questo che i passi hanno nomi in francese dal suono dolcissimo: adage, glissade, arabesque. Per Angela Romano, 19 anni, occhi vivaci e riccioli scuri che lo chignon fatica a trattenere, il 2009 è l'anno del diploma. Cosa ricorderà della sua esperienza all'Accademia? le giornate di sole, ballare di fronte alla Domus Augustea è il massimo. E abbiamo ripristinato il collegamento e dunque tempo di quaresima dappertutto, ma non appoggio Mirteto, piccola realtà in provincia di Rieti. Ascoltiamo Alessio Fabrizi. Qui si festeggia il Carnevalone Liberato, festa anticlericale, ricorrenza che celebra la liberazione del paese dallo Stato Pontificio. Ma la pioggia costante e la disorganizzazione hanno scoraggiato i più a partecipare. Per tutti gli altri lo spettacolo delle maschere. Sino al clou, il pupazzo gigante dalle fattezze del ministro della funzione pubblica Brunetta, che per colpa o per merito del brutto tempo non ha preso fuoco. Per chi è scaramantico, un cattivo presagio. Per chi è fedele, un segnale della ritrovata influenza del Vaticano nella nostra vita quotidiana. Sembra proprio che per continuare a sperare nel futuro non rimanga che essere atei. Dunque, buon carnevalone. Passiamo ora allo sport, con il calcio. Serie A, l'Inter rimonta la Roma, ma ci sono ancora polemiche. I particolari da Giovanni Pucci. L'Inter rimonta una Roma improvvida, che si era trovata due volte sul doppio vantaggio per le reti di De Rossi, Riise e Brighi, grazie a una doppietta di Balotelli e a un'incornata del provvidenziale Crespo, che è stato della partita quasi per caso. Una rimonta macchiata però dal solito errore arbitrale di Rizzoli, tratto in inganno dal tuffo di Balotelli. I giallorossi, eterni incompiuti, sprecano l'occasione di raggiungere la Fiorentina al quarto posto. Mourinho mantiene così un vantaggio di 7 punti sulla Juventus, immediata inseguitrice, che sabato aveva piegato il Napoli grazie ad un autogol di Blasi. Cade ancora il Milan, affossato a Genova da Cassano e Pazzini, in forma nazionale, e la panchina di Ancelotti fa sempre più traballante. Inutile il gol del 2-1 di Pato. In chiave salvezza, sorprendente vittoria del Chievo a Bergamo per 2-0 e pareggio a reti inviolate tra Cagliari e Torino, con Novellino che si tira fuori dalla zona retrocessione. In chiusura del giornale radio ricapitoliamo i titoli principali. Abbiamo parlato del vertice dell'Unione Europea di Bruxelles, che ha bocciato i finanziamenti per l'Est, e dello stupro della Caffarella, con gli sviluppi delle indagini sul DNA dei due romeni arrestati. Grazie per essere stati con noi, da Valeria Meta e da Alessio Orlandi. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Basso tra circa un'ora.